Sprint sì, è un acronimo volutamente un po' ironico e un po' fintamente pomposo, infatti poi dopo il simbolo è una lumachina per prenderci un po' in giro. E allora, weekend consiste in 3 giorni, con il venerdì si arriva al Circolo Arci Guarnelli in via Gandusio 6, sotto il ponte di Stalingrado. C'è un ricevimento lì e poi dopo da lì, poco alla volta, ci spostiamo verso XM24, quasi subito, in cui convogliamo in un altro festival che c'è XM, che si chiama Olé, Oltre Editoria, e lì faremo una breve presentazione della 3 giorni e del percorso, e la serata la facciamo XM mangiando là. Poi dopo il sabato, la mattina, ci sono i tornei, ci sono delle situazioni di sport inclusivo, di calcio, basket, pallavolo e rugby, tra il giardino Parker Lennon, sempre vicino a Guarnelli, la palestra Gino Milli, lì in via Gandusio, e il dopolavoro ferroviario. Più precisamente il rugby sarà il dopolavoro ferroviario, calcio e pallavolo al giardino Parker Lennon, nel basket in palestra di Mamilli. Dopo questa attività, in questa attività ci sarà anche il torneo di mondi, ci sarà la penultima giornata del torneo di mondi, il torneo itinerante di calcio, che si inserisce in sprint questa fine settimana, quindi poi mangeremo insieme al parco e poi verso le 4, dalle 4 alle 6 più o meno, un paio d'ore, abbiamo dei tavoli tematici in cui affrontiamo alcuni argomenti secondo noi salienti all'interno del discorso dello sport popolare. I tavoli sono precisamente 3. Uno è sport come fine o mezzo politico, uno sport e inclusione e uno legame tra sport e spazi. Quindi li affrontiamo divisi in gruppi, chi vuole va in un gruppo o nell'altro o nell'ultimo. Abbiamo dei moderatori, abbiamo qualcuno che introduce un pochino i temi. Poi dopo, finito questa parte, andiamo a fare una cena a VAG e quindi ci inseriamo ancora, ci agganciamo a un altro spazio, che è quello di VAG in via Paolo Fabbri, e lì facciamo una cena. C'è anche qualcuno che fa una piccola presentazione fondamentalmente sulla tematica intersezionale, cerchiamo un po' di capire cosa vuol dire questo intersezionale legato allo sport, poi ci sarà un po' di musica per rilassarci. E infine la domenica si parte la mattina con un'assemblea plenaria in cui raccogliamo un po' gli interventi e quello che è uscito di rilevante nei vari gruppi del sabato, e partiamo da quelli e andiamo avanti a fare un ragionamento insieme, fondamentalmente per cercare di capire, di indagare che cos'è lo sport popolare e dove ci può portare facendo un percorso comune. E infine, dopo la plenaria, facciamo nel pomeriggio, domenica tra attorno all'ora di pranzo e poi pomeriggio, ci sono delle esibizioni di sport di combattimento, di allenamenti in comune. Perfetto, si capisce un po' già anche da come è impostato il programma, poi si capisce anche dalla descrizione che avete dato dell'evento, a partire dal nome, è un tema molto interessante proprio questo di una discussione anche del ruolo sociale, diciamo, dello sport, in cui si inserisce anche il tema dell'intersezionalità, insomma, tante le questioni che affrontate. Ti chiederei se, insomma, come ci si arriva anche, e poi perché è così importante interrogarsi anche proprio sul ruolo dei corpi all'interno dello sport. Ma allora, noi appunto stiamo facendo, cioè questa 3 giorni viene fuori all'interno di un percorso di co-ricerca di sport popolare che stiamo portando avanti da ormai quasi 2 anni, nel quale abbiamo cominciato a interrogarci primi noi con le associazioni che stanno organizzando questo evento, che sono l'EIB e il Grinta e la palestra Gino Milli principalmente, sono tutte realtà appunto che stanno in via Gandusio 6. Abbiamo cominciato a interrogare noi stessi a partire da che cosa vuol dire per noi sport popolare, che cosa vuol dire per noi agire lo sport in un certo modo. E poi dopo abbiamo cominciato a fare una serie di interviste a tutta una galassia di realtà in qualche modo attinenti al percorso dello sport popolare, anche molto diverse tra di loro, che però in qualche modo si riconoscono in questa concezione. E abbiamo fatto circa quasi 50 interviste tra Bologna e il resto d'Italia. Siamo partiti da Bologna e poi abbiamo cominciato a fare anche interviste a Milano, a Torino, a Roma, a Napoli, in Sicilia, per cercare di capire di cosa parliamo quando parliamo di sport popolare, per evitare di non capirci, per evitare misunderstanding o anche strumentalizzazioni, anche da parte magari della destra, e quindi capire che legame ha lo sport con gli altri nostri interventi sociali nel quotidiano che possiamo fare e portare avanti, essendo in qualche modo legati a percorsi con certe sensibilità sociali e politiche, quindi contro le discriminazioni, per l'inclusione in generale. E quindi cosa vuol dire sport contro le discriminazioni? Cosa vuol dire sport popolare, sport inclusivo? Noi qualche risposta stiamo provando a darcela, anche grazie al contributo di queste decine di interviste che abbiamo fatto, e insieme vogliamo provare a capirlo un po' meglio, per cui capire come dall'esperienza di ciascuno, perché poi ognuno ha le sue esperienze in base un po' a quello che crede e un po' al contesto che vive e che attraversa, perché alla fine spesso sono anche i contesti che ci impongono di cambiare delle modalità, o gli sport stessi, perché alcuni sport puntano su alcune cose, altri su altre, e quindi vengono fuori, possono venire fuori anche delle istanze un pochino diverse anche a seconda del tipo di sport. Cerchiamo di capire in cosa siamo simili e in cosa possiamo rivendicare più spazio all'interno delle dinamiche di sport in generale, cittadine, nazionali, e anche di fronte alla politica, e quindi a partire da richiedere spazi, da richiedere prezzi più popolari, più agevolati, da richiedere delle modalità di fare sport di un altro tipo. Noi una serie di idee ce l'abbiamo. Ci piacerebbe provare a capire tutti insieme dove possiamo arrivare insieme e cosa vogliamo ottenere insieme, dato che la galassia è molto ampia, anche abbastanza frastagliata. Secondo noi è anche il caso che cominciamo a creare delle reti, non solo cittadine, che già un po' ci sono, ma anche un po' più ampie, per rivendicare su più a larga scala. Certo, perfetto, grazie mille. Io ti chiedo solo una informazione al volo rispetto alle interviste che avete fatto, se esiste una qualche forma di archivio, diciamo, di queste interviste, o se esisterà? Allora sì, per ora ce l'abbiamo noi fondamentalmente, e ci sono servite anche per creare i temi di questa 3 giorni, e però poi dopo appunto il nostro percorso non finisce con questa 3 giorni, ma finirà un po' più avanti, probabilmente con la creazione di un documento che probabilmente sarà un libro su questo tema, in cui ci sarà un'introduzione, ci sarà una parte storica, ci saranno degli allacci anche con i vari blog che parlano di sport in un certo modo, e poi dopo ci sarà tutto il corpo centrale che vorremmo fare parlare le interviste. È un lavoro che porteremo avanti un pochino dopo questa 3 giorni. Se qualcun altro si vuole aggregare, a maggior ragione partendo da Sprint, da questa fine settimana, ben venga.